America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. The problem has been that the website that's supposed to make it easy to apply for and purchase the insurance is not working the way it should for everybody. Barack Obama ieri ha difeso il suo progetto di riforma sanitaria nonostante gli attacchi repubblicani, ma ha ammesso che ci sono dei gravi problemi dal punto di vista della gestione del software. Ha promesso che questi problemi saranno risolti. Certo, per l'amministrazione, dopo la battaglia che c'è stata, un po' un imbarazzo, ma il negoziato su quel fronte va avanti. Un'altra curiosità: il governatore del New Jersey, Chris Christie, che è un repubblicano, ha accettato l'idea dei matrimoni gay. Come dico sempre in chiusura di trasmissione, ci sarebbero mille notizie di cui parlare in America, ma ce n'è una su cui mi voglio concentrare. L'accordo che la JP Morgan Chase, una delle più grandi banche americane, ha raggiunto col Dipartimento per la Giustizia, un accordo preliminare che prevede, perché si sono messi d'accordo sulla cifra, una multa di 13 miliardi di dollari da pagare al governo americano come risarcimento per operazioni, diciamo, non propriamente trasparenti fatte in un periodo fra il 2005 e il 2007 in relazione a prestiti subprime. Ecco, quello che mi ha colpito però in questa vicenda è un insegnamento che secondo me è importante per noi, perché come nasce questa transazione, come nasce questo accordo extragiudiziale? Beh, lo scorso luglio Tony West, che è il magistrato che aveva studiato il caso JP Morgan Chase a Sacramento in California, aveva preparato l'istruttoria e i capi d'accusa, alza il telefono e avverte Stephen Cutler, che è il capo dell'ufficio legale della banca, della conclusione di questa sua inchiesta per irregolarità su questi prestiti subprime. Gli comunica che il Dipartimento della Giustizia intende procedere con un processo civile, possibilmente un processo penale, e gli invia l'intera documentazione relativa al processo. La banca riceve la documentazione, coinvolge Roger Cohen, che è l'avvocato che rappresenta la banca, che poi è lo studio Sullivan and Cromwell, e parte a quel punto la prima fase del patteggiamento. Cosa mi ha colpito in questa storia? Non c'è stato nessun arresto preventivo, nessuna divulgazione attraverso la stampa delle carte, delle prove, delle accuse raccolte dal magistrato, che risponde tra l'altro al Dipartimento per la Giustizia, dunque a Eric Holder, che è il segretario per la giustizia, e poi la conclusione la conosciamo, come vi ho detto, un accordo che potrebbe costare alla banca 13 miliardi di dollari, inclusi 4 miliardi in rimborsi per le parti lese, cioè i piccoli risparmiatori. Ecco, questa impostazione trasparente sia da parte della magistratura che da parte della banca credo che dimostri in termini molto concreti quello che ogni tanto vi racconto, cioè come il modus operandi del sistema giudiziario americano sia molto pragmatico, riservato, rapido e soprattutto concludente. Ecco, questa diversa impostazione, dinamicità, trasparenza, disponibilità in buona fede da ambo le parti a trattare, credo dovrebbe essere un nostro punto di riferimento quando si parla di riforma della giustizia nel nostro paese, soprattutto quando ci domandiamo come mai gli investitori americani sono così un po' restii a finanziare operazioni in un paese, cioè l'Italia, che non gli fornisce abbastanza garanzie legali. Ecco, ho girato questa domanda ieri a New York a un personaggio autorevolissimo, un ex magistrato che ha lavorato per oltre 40 anni in magistratura, il presidente del Senato Pietro Grasso. Ecco cosa mi ha risposto. Il problema della giustizia in Italia, io l'ho sempre posto da 20 anni tra le priorità, e quella che spesso spacciano come riforma della giustizia in realtà sono riforme di singoli aspetti della giustizia e sono riforme parziali. Per me la riforma maggiore della giustizia italiana dovrebbe essere quella che comporta la possibilità di una giustizia rapida, certa, sicura, riservata. Ciò non significa che non deve essere conosciuto il fatto giudiziario, ma deve essere conosciuto quando diventa pubblico, a un dibattimento pubblico. E allora la gogna mediatica non credo che sia un modo per fare giustizia. Ecco. Mentre la giustizia rapida, e soprattutto nel campo civile oggi lo vediamo, avere un credito che non si riesce a esigere è qualcosa che mette in crisi tutto quanto l'ordinamento e soprattutto gli investimenti, perché un investitore straniero che sa che se non che se vuole essere pagato, che non rispetti un contratto, se vuole una cosa del genere e non riesce a farlo in tempi rapidi, beh, è chiaro che viene, è una delle tante cause che lo disincentivano dall'investimento. Quindi sotto questo profilo dovremmo lavorare per una giustizia celere, riformando veramente, cercando di evitare anche quegli aspetti come per esempio la prescrizione nel nostro ordinamento, che è qualcosa che fa sì che la giustizia si allunghi nella speranza di sfuggire alla giustizia, perché il passaggio del tempo spesso gioca a favore o di chi è un debitore o di chi è un colpevole, un imputato con prove granitiche che non si possono aggirare. Io le idee ce le ho da anni su queste cose. Adesso spero che si possano prima o poi mettere in atto e portare avanti sul piano politico. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, c'è una nuova canzone di Taylor Swift, è apparsa ieri su internet, il brano sarà parte della colonna sonora di One Chance, il film che racconta la storia di Paul Potts, il tenore inglese che ha vinto Britain's Got Talent nel 2007 cantando un'aria di Puccini. Sono sicuro che la ricorderete tutti, ma di Taylor Swift, Sweeter Than Fiction.